Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata soprattutto agli appassionati di vino, perché oggi diciamo che questa puntata è proprio dedicata agli appassionati di vino. Chissà, forse il Vinitaly così ha sollecitato molti interessi, soprattutto per i tappi e per le bottiglie. Infatti questa trasmissione la faccio anche a seguito di molte segnalazioni che ho avuto di così appassionati che volevano sapere tutto sui tappi, perché è vero, in questo momento aprendo le bottiglie si scoprono tappi completamente nuovi, di vetro, di silicone, a vite, oltre ovviamente e sempre al sughero, che diciamo che è ancora il principe dei tappi. E allora in molti si chiedono: ma come sono? Cosa sono utili questi tappi? Hanno dei problemi? Creano delle difficoltà? E quindi noi oggi vorremmo così andare a sperimentare, verificare un po' tutti questi aspetti dei tappi, ma non solo, anche delle bottiglie, perché in altrettante persone si chiedono: ma la mezza bottiglia, nella mezza bottiglia il vino diciamo rimane tranquillo come nelle altre bottiglie, non subisce difetti, non subisce così variazioni? Ecco, allora andremo a scoprire anche questo aspetto. Lo faremo ovviamente assieme a produttori, assieme ad enologi, assieme a esperti del settore. Allora cominciamo da un winemaker, un enologo docente universitario a Milano, che è Leonardo Valenti. Buongiorno Valenti. Ciao, buongiorno Davide. Allora, hai sentito, non so se hai sentito diciamo un po' l'interrogativo. Ecco, ma come mai stanno arrivando sul mercato chiusure completamente diverse dalla tradizione, dal passato, dal sughero, e il vetro, il metallo e poi ancora dei prodotti sintetici come il silicone? Ma questo dipende perché sughero ce n'è molto meno, oppure perché costano meno questi nuovi tappi, oppure ancora le chiusure sono migliori? No, non sempre costano meno. Troviamo anche prodotti che costano in modo similabile al tappo di sughero. Il problema è della qualità ormai, del numero delle bottiglie che si imbottigliano con tappo di sughero, e per cui alla fine ci si trova con un materiale che non è più all'altezza dei riscontri qualitativi di una volta. Le sughere si tagliano con dei cicli più brevi, le cortecce hanno un minor tempo di crescita, e per cui i tappi effettivamente sul numero risultano poi essere di qualità inferiore rispetto a quello che era forse un tempo, non a livello microbiologico ma proprio a livello meccanico come tipo di prodotto. Per cui adesso ci si ingegna a creare i presupposti affinché il tappo garantisca una idoneità più che corretta nei confronti del vino. Questi tappi alternativi sono quelli che alla fine danno una mano a risolvere alcuni problemi di recupero e di qualità del materiale che si trova sul mercato. Ecco, ti interrompo perché abbiamo con noi un produttore di tappi di sughero. Io ora non vorrei fare una gaffa perché addirittura ho due cognomi. Bene, Graziano Guia, ho detto giusto? No, Graziano Guia. Ah, ecco, vede, sapevo perché vedevo Guia. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Paolini, buongiorno a tutti gli ascoltatori Radio 24 del Gastronauta. Lei ha sentito Valenti? No, io non ho sentito il mio interlocutore, innanzitutto lo saluto. Ecco, ha detto che sicuramente diciamo questi nuovi tappi appaiono anche perché diciamo che i tappi di sughero nel tempo così cominciano ad avere problemi sicuramente di maggior sicurezza, nel senso che appunto dipende dalla produzione, dipende dal minor numero dei tappi che possono essere sul mercato. Lei cosa ne pensa? Ma io innanzitutto vorrei così, ho ascoltato la sua esposizione nella quale ho notato diverse imprecisioni. Prima di tutto non corrisponde al vero il fatto che si diminuiscono i tempi di estrazione del sughero, anche perché forse si riferisce magari a produttori che appartengono a un'area identificata nel bacino, non nel bacino del Mediterraneo quanto magari in Portogallo, mentre in Sardegna nel bacino del Mediterraneo comunque vige una legiferazione molto severa sull'estrazione del sughero. Perlomeno in Sardegna abbiamo una legiferazione molto restrittiva, perché il minimo degli anni di decortica è di 10 anni, quindi vorrei che quando si affronta un argomento molto delicato come quello del sughero, perlomeno ci fossero dei riscontri molto precisi, perché parliamo oltretutto di una salvaguardia di un prodotto che oltre ad avere una valenza economica straordinaria, ha anche una valenza economica... Sì, ecco. Io la interrompo un secondo per dire che sicuramente non si può parlare, lei giustamente parla della Sardegna dove produce, ma diciamo che i tappi si producono in altre parti del mondo, quindi sicuramente Valenti faceva un discorso a livello mondiale, quindi il vostro può essere un caso particolare, però a livello internazionale così sicuramente molte difficoltà ci sono. Ripeto, per quanto riguarda il problema della decortica che sta andando a diminuire, quello è un qualcosa che in questo momento sinceramente riesco a contestare così molto facilmente, anche perché anche nei paesi produttori maggiori come il Portogallo, dove c'è la maggior quantità di prodotto estratto, in ogni caso si sta andando verso una legiferazione anche là molto, molto più severa. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tappi. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Devo già dire che sono arrivate moltissimi sms e ne leggo una in particolare. L'aria danneggia il vino, quindi più la bottiglia sigillata meglio è. Il sughero non chiude perfettamente e una certa percentuale di bottiglie con settore di tappo è inevitabile. A mio parere il migliore sarebbe il tappo utilizzato dallo champagne fino alla sboccatura, poi a quello a vita abitualmente. Bene, questa è una delle tante. Un altro parla del tappo a vita utilizzato in Australia, però si perde la poesia rituale della stappatura, quindi il tappo di silicone è un buon compromesso. Però sentiamo Eric dalla provincia di Grosseto. Buongiorno Eric. Sì, salve Davide, buongiorno. Sì, ho già individuato chi sei, questo è un produttore di vino, quindi sentiamo Eric. No, volevo solamente dire, certo la poesia col tappo a vite manca, però in America, in Inghilterra e in Scandinavia, dove sono mezzo danese, tutti richiedono il tappo a vite. Quando stavo l'altro giorno a New York, c'era in una grande enoteca 100% Cabernet, 100% no cork. E questo la dice lunga. I tappi in sughero sono diminuiti di qualità ultimamente, per cui bisogna stare anche molto attenti. Bene, Eric, io ti ringrazio di questo, perché poi sentiremo anche dall'Australia, abbiamo la nostra antenna australiana che poi alla fine sentiremo cosa succede sul mercato australiano. Io volevo tornare a Valenti. Valenti, hai sentito, sì. Diciamo, Graziano Giulia cosa diceva? Sì, io l'ho sentito e devo anche rispondere che in effetti le produzioni sarde sono prodotti di qualità, ma sul numero totale dei tappi che si producono nel mondo, quelli sardi sono un numero molto ristretto come quantità. Per cui giustamente lui si lamenta, ma penso che parli molto di sé e il discorso del mercato internazionale sia leggermente diverso. Comunque, a prescindere da questo, secondo me comunque questi tappi hanno preso piede, perché il sughero non garantiva, come ha detto il tuo ascoltatore, non garantivano sufficientemente determinati livelli di standard di comportamento nei confronti del vino, perché se in una situazione come questa noi ci troviamo con l'impossibilità di dare colpa della non perfezione di un prodotto che viene messo sul mercato, sai, il produttore viene molto penalizzato, certo, da questo. Bene, grazie a Leonardo Valenti. Ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, risentiamo il nostro produttore, che tra l'altro rappresenta l'azienda Satta and Satta Engineering di Calangianus, Olbia Tempio. Graziano. Dunque, io innanzitutto vorrei salutare il dottor Banti per il suo intervento. Anche lei ha scoperto chi era. diciamo che da amante del buon vino, del buon bere, oltre che da produttore di tappi di sughero, insomma, è abbastanza normale che conosca perlomeno di nome per fama Eric Banti. Per quanto riguarda le sue osservazioni, Le condivido in parte. Le condivido in parte per un motivo molto semplice. Loro, Banti parlava dei mercati, diciamo, anglofoni. Ebbene, i mercati anglofoni non ci vanno solamente i produttori di vino, ci vanno anche i produttori di tappi di sughero. E posso dirle che in controtendenza, ovviamente, a un punto di vista che è ovviamente quello del produttore, che è leggermente diverso, però ci sono esigenze della grande distribuzione di un certo tipo e ovviamente è chiaro che bisogna andare incontro a questo tipo di richieste. Il vino comunque di alta qualità, media alta qualità, è imprescindibile e non il può fare di meno il tappo di sughero. Questo bene, è ovvio. La ringrazio, grazie del suo intervento. Sentiamo ora Domenico Liberati, un radioascoltatore che interviene, ma mi sembra che mi viene segnalato che è autore del libro sui tappi sintetici. Buongiorno Liberati. Buongiorno, salve a tutti. Mi dica. Dunque, io ho scritto un libro sui tappi sintetici, sono un ingegnere chimico, e mi sono occupato per tantissimi anni di questo argomento. Volevo intervenire semplicemente per dire qual è attualmente il motivo principale per il quale vengono utilizzati i tappi sintetici oggi. Sebbene siano nati per risolvere il problema del sapore di tappo, il mercato del vino oggi richiede prodotti che siano standard, che siano semplici da utilizzare, che siano reperibili in qualsiasi momento e quindi il tappo sintetico oggi, che si è molto evoluto grazie anche all'arrivo di nuovi polimeri che permettono una conservazione del vino perfetto, si è evoluto e è diventato una soluzione ottimale per le cantine che vogliono imbottigliare velocemente, che non vogliono perdere molto tempo nell'analisi dei lotti, dei tappi di sughero, che richiede moltissima attenzione. E quindi l'interesse si è spostato non tanto dall'idea di eliminare completamente il sapore di tappo, ma il tappo sintetico è diventato un prodotto veramente di semplicità di utilizzo che aiuta moltissimo le cantine e il mercato. Bene, grazie a Domenico Liberati, autore di questo libro. Leggo un altro sms: a recente vinitero ho assaggiato i vini di Livio Feluga che da quest'anno erano in bottiglia con tappo vite. Dobbiamo rassegnarci, il tappo vite è il futuro. Bene, Sandro Verona, ricordo numero verde 800 24 00 24. E ora abbiamo con noi un ricercatore della MNT Italia, che ha fatto proprio recentemente una ricerca su il tappo sughero e il vino. Quindi io lo pregherei, so che questa ricerca l'ho anche così vista e diciamo ne abbiamo anche discusso, però vorrei che Gianfranco Lai fosse sintetico. Anzi, prima sentiamo un radioascoltatore, Filippo da Milano. Buongiorno Filippo. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Appunto, mi chiamo Filippo, chiamo da Milano. Io assieme a un amico ho costituito una società che è una private label e seleziona quindi vini di qualità che poi commercializza con la sua etichetta. E quello che volevo dire è che da questa mia esperienza con questa attività commerciale ho notato che i ristoratori molto spesso, la stragrande maggioranza, non fa una scelta di qualità nei confronti del vino. Quando gli si propone un prodotto di qualità che ha un costo, non dico estremamente superiore, anche leggermente superiore al costo che stanno pagando, e le assicuro, principalmente buttano tutti al ribasso, ma non solo adesso per la crisi, è una tendenza che c'è sempre stata, quando lei propone un qualcosa che costa anche solo leggermente in più, qualcosa in più, trova un muro. È difficile che trova il ristoratore serio, competente, che riesce a percepire la differenza di qualità e a dare un valore a questa differenza. Bene, grazie, abbiamo recepito la sua osservazione data sul campo, ma ora volevo tornare a Gianfranco Lai, che appunto ha fatto questa ricerca internazionale su più paesi sulla percezione qualitativa da parte dei consumatori. Gianfranco, io la pregherei se lei sinteticamente mi dice i risultati che sono emersi tra i vari tappi. Certo, buongiorno a tutti. La ricerca è stata fatta recentissimamente, novembre-dicembre dell'anno scorso. Ha interessato 20 gruppi di discussione condotti da uno psicologo motivazionalista in 4 paesi, sono i principali paesi di consumo del vino: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna. E sono emerse delle cose interessanti, perché abbiamo messo a raffronto tutti i sistemi di chiusura presenti sul mercato attualmente, cercando di capire che cosa percepiva il consumatore nell'atto di stappare e consumare una bottiglia di vino. sono tanti i risultati. Quello più eclatante mi sembra che sia questo, che all'atto di un test di assaggio cieco, cioè lo stesso vino con tutte le diverse tappature, è emerso che i consumatori che percepiscono comunque il tappo di sughero come legato al vino di qualità, per cui il vino buono è tappato in sughero, e questa è un'associazione che c'è ed è presente anche nei mercati anglofoni, anche in Gran Bretagna, hanno trasferito questa percezione sul tappo sul vino, nel senso che prima dell'assaggio del vino hanno dichiarato in modo esplicito che si aspettavano di trovare un vino migliore nelle bottiglie tappate con i tappi in sughero. Il vino era sempre lo stesso. Al lato poi dell'assaggio effettivo, con il vino sempre uguale, hanno effettivamente poi manifestato una preferenza per il vino tappato in sughero. L'hanno trovato più ricco di profumi, più morbido, più strutturato. In realtà era lo stesso. Quindi questo ci ha fatto capire, gli psicologi lo hanno analizzato in maniera molto precisa, che c'è un trasferimento di percezione positiva dal tappo al vino che si esalta sul sughero e si deprime sugli altri sistemi di tappatura. Questo è il risultato. Bene, grazie. Grazie a Gianfranco Lai per questa testimonianza importante, anche perché è una ricerca internazionale. Claudio D'Alessandria, un radioascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Niente, io volevo intervenire e togliermi una curiosità, essendo anche io del settore del mondo del vino, sul perché in realtà l'utilizzo del tappo del sughero in Italia è vincolato e legiferato praticamente dal disciplinare italiano, quando invece all'estero, come in Francia piuttosto che in Spagna, non ci sono dei vincoli dati dallo Stato. Cioè, quindi è il produttore che è libero di scegliere la chiusura migliore che preferisce utilizzare per preservare il proprio vino. Bene, la ringrazio Claudio anche di questo suo intervento, che aggiunge così altre considerazioni. Ma io vorrei pregare, magari se può, Pietro di Parma, che ha mandato un sms molto interessante dal punto di vista tecnico. Magari non lo leggo, perché mi piacerebbe che intervenisse e raccontasse cosa mi ha scritto su questo sms, perché potrebbe essere veramente oggetto di discussione poi nel seguire di questa trasmissione. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tappi. Avrei voluto parlare anche di mezza bottiglia, ma qui veramente il tappo è molto ma molto sentito, specialmente anche dai radioascoltatori. Leggo degli sms molto, molto finalizzati, molto documentati, quindi sicuramente stanno intervenendo non solo consumatori, ma stanno intervenendo anche produttori. Appunto, sentiamo Antonio dalla provincia di Olbia, che mi dicono essere addirittura rappresenta il 90% dei produttori di tappi di sughero. Buongiorno Antonio. Buongiorno, innanzitutto saluto tutti voi e tutti i radioascoltatori. Volevo intervenire per quanto riguarda la situazione del tappo di sughero, darvi qualche cifra. Allora, sono 200 le aziende produttrici in Sardegna che occupano circa 1200 dipendenti diretti più l'indotto. Vengono consumati in Italia, forse dati che ancora nessuno aveva detto, 1,5 miliardi di tappi di sughero. Ma guardi, poi avremo in trasmissione come invitato Giuseppe Molinas, che è presidente del gruppo Sughero Fedelegno della Confindustria, quindi sicuramente anche una voce ufficiale la avremo. Comunque mi dica. Vuol dire che per quanto riguarda i tappi alternativi artificiali, non è stato detto la durata di conservazione per quanto riguarda il tappo all'interno della bottiglia destinato all'invecchiamento. Il sughero è un dato di fatto, anche da poco sono state trovate delle bottiglie sommerse in una nave punica, quindi risalenti a secoli fa, perfettamente conservati. Quindi non è vero che il tappo a lungo andare, il tappo di sughero, viene a deteriorarsi e quindi a compromettere la qualità del vino messo in bottiglia. Diciamo che ci sono dei fattori di lavorazione e di stagionatura delle piante di sughero che dovrebbero essere più conservate. Bisognerebbe fare una politica di forestazione, sì, per migliorarne la qualità e la tecnologia che adesso abbiamo tutt'oggi nei mercati ci consentono di dare determinate garanzie per quanto riguarda la conservazione del vino. Guardi Antonio, mi scusi perché abbiamo molti radioascoltatori, comunque le aggiungo quello che lei ha detto, che io ho partecipato a un convegno proprio al Vinite in cui era presente il nuovo assessore all'agricoltura della regione Sardegna, il quale infatti ha così dichiarato che ci sarà fatta una politica non solo di incremento delle sugherriere, ma soprattutto anche, se vogliamo, di una politica ambientale molto importante. Poi ce lo faremo dire anche da Giuseppe Molines. Comunque sicuramente nessuno vuole mettere in dubbio la produzione sarda, stiamo semplicemente vedendo, perché siamo invasi, e io le vorrei far leggere gli sms che mi arrivano, sono tantissimi, in cui la gente è molto interessata di capire la conservazione. Io ho un sms che mi dice: esistono dei tappi che garantiscono una corretta tenuta del tempo, mi riferisco a vini particolari, quale ad esempio il forzato della Valtellina e il mantonico della Locride. Certo, nessuno mette in dubbio la tenuta dei sugheri in questi anni. Ci sono bottiglie non solo trovate, diciamo, in fondo al mare, ma bottiglie anche di 50-60 anni che si trovano in circolazione ancora nei locali, nelle enoteche, nelle case. Quindi sicuramente c'è questo. Stanno apparendo questi nuovi tappi, e sicuramente lo vedremo dall'Australia e da altri paesi dove ci sono vini anche molto più giovani che vengono usati altri tappi. Io vorrei sentire, ad esempio, abbiamo un produttore, Giorgio Colutta, titolare dell'azienda agricola Colutta a Manzano, Udine, che, a quanto mi dicono, utilizza tappi di vetro. Buongiorno Colutta. Buongiorno Topolini, buongiorno anche agli ascoltatori. Sì, effettivamente abbiamo iniziato qualche anno fa, a livello così sperimentale, questa nuova chiusura, questo tappo in vetro. Eravamo un po' così resti a usare il tappo in silicone, quindi abbiamo cercato un'alternativa che è stata, direi, particolarmente gradita anche dalla nostra clientela. C'è da dire un particolare, cioè che noi siamo in una zona particolarmente vocata a vini bianchi, e lo usiamo esclusivamente su vini bianchi. Questo perché, essendo un tappo appunto abbastanza recente, non c'è una casistica, una storia così come del sughero per sapere la durata dei vini con questa chiusura, quindi per vini da invecchiamento, come qualcosa viene fatto evidentemente anche qua. Quindi abbiamo preferito optare sui vini bianchi, dove nell'arco di 2-3 anni i nostri Sauvignon, Pinot Grigio, Friulano e quant'altro vengono consumati. Insomma, ecco, però l'esperienza è stata positiva sia a livello di risultato di prodotto, quindi di conservazione, sia anche a livello di gradimento da parte del consumatore. È una cosa abbastanza elegante, una cosa che piace molto, una cosa dove non serve un cavatappi, e quindi anche questo aiuta nell'apertura, per esempio anche sulle linee aeree è una cosa gradita, ad esempio. Quindi insomma, diciamo che abbiamo avuto una risposta positiva da parte della nostra clientela e dal punto di vista anche qualitativo. Bene, la ringrazio, grazie Colutta della testimonianza. Ora vuoi sentire l'ascoltatore dell'SMS, Pietro da Parma. La ringrazio, Pietro, di aver chiamato. No, prego. No, fa piacere anche a me intervenire, perché io da anni, no, spingo la causa del vino biodinamico e biologico, e ho un locale in cui vendo prevalentemente questi prodotti. Io sono contento che se ne parli, perché secondo me il sughero consente, come nelle botti in legno, come nelle barrique, un'osmosi al prodotto che gli consente di maturare nel tempo, che invece il tappo in silicone non consente. Per cui preserviamo i sugheri per i vini di alta qualità e abbandoniamoli nei vini di pronta beva, come i vinelli da supermercato. Bene, grazie Pietro. Sentiamo ora, abbiamo visto che buona parte del tappo a vetro, del tappo vite, viene usato nel nord, in Friuli, in Veneto e Friuli Veneto e Alto Adige, sui vini bianchi. Io devo dire che un tappo di vetro o un tappo vite ancora non l'ho mai visto in un vino rosso, comunque magari sicuramente ci sarà. Però volevo parlarne di questo con Giorgio Grai. Io l'ho definito il santone dell'enologia italiana, lui non me ne voglia, ma per me è una definizione molto molto positiva e di grande rispetto. Buongiorno Giorgio. Ciao, buongiorno. Cosa ne pensi dei nuovi tappi? Ma io intanto devo dire che ho sentito molte cose e ognuno ha ragione, ma ha le sue ragioni. Ci sono delle situazioni di carattere pratico che noi dobbiamo prendere in considerazione, ovvero sia, io dico che non c'è nessun rapporto tra contenitore, contenuto e chiusura. La chiusura deve essere un qualche cosa che mi permette di tenere conservato in stato ottimale il prodotto che mi è costato fatica, perché mi è costato 2-3 anni, un anno viticolo e 2-3 anni o forse meno, forse più, di conservazione. Quindi io devo tutelare il cliente e devo tutelare il mio lavoro, e non c'è nessun rapporto tra queste cose. Il contenitore ha una sua funzione, il contenuto deve essere eccellente, la chiusura deve essere corrispondente a mantenere il vino. ognuno di questi produttori di sughero, non sughero, di vetro, non vetro, secondo la loro ottica hanno portato delle ragioni, ma io devo rispettare il prodotto e il consumatore. Sarà molto breve. Quando mi si dice che il vino deve respirare, ti dico che le macchine di imbottigliamento più costose sono adesso e facciamo una pre-evacuazione dell'aria. Mettiamo un gas inerte in bottiglia vuota, facciamo il riempimento. Dopo il riempimento passa prima della tappatura e c'è un ugello di CO2 che spruzza dentro un più CO2 che è come far l'amore per telefono, non serve a niente, poi lo tappiamo e dopo tutte queste operazioni raccontiamo che il vino deve respirare. Se deve respirare non togliamo tutta l'aria, non mettiamo il gas inerte, non facciamo tutte queste cose. Perfetto, preciso come sempre, già grazie a Giorgio Grai. Voglio sentire Gualtiero da Milano. Buongiorno Gualtiero. Buongiorno Davide. No, direi, non voglio entrare nella polemica, io sono assolutamente per i tappi di sughero. Ho ricevuto al ristorante delle bottiglie col tappo a vite e le ho rimandate indietro perché mi sembrava svilire il mio cliente. Le uniche cose che tengo col tappo a corona, e questo è il tappo a corona, sono due grandi per me, il Pierre Frick dell'Alsazia, che fa il suo Pinot Noir, e Riesling, che sono stupendi, biodinamici, è un grande italiano che è il Camillo Donati, certo. La sua Barbera, cioè, e quelli, cioè, tappo corona, anzi si diverte, cioè, anzi faccio stupire il cliente con quelli lì perché poi bevono un vino straordinario, eccezionale, cioè straordinario, ecco. Bene, grazie Gualtiero della testimonianza. Sentiamo Marco da Massa. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno. Breve, io perché ho poco tempo. Delle mezze bottiglie, sì. Secondo me è un problema di volume. Il vino, secondo me, scadene la bottiglia da 75, ridurlo così è una mia impressione, eh? Ridurre una bottiglietta più piccola secondo me ne perde. Io non so, è una mia opinione. Bene, grazie. L'ascolto per radio, grazie. Grazie, sentiamo Domenico da Milano. Buongiorno Domenico. Sì, buongiorno, anch'io rapidamente volevo aggiungere magari ai grandi produttori che fanno le tappa corona, Yerman, non dimentichiamoci che... No, Yerman fa tappo a vite, attenzione, non la corona. Sì, tappo a vite, mi perdoni, sì, tappo a vite. Io quello che volevo dire è che secondo me sono importanti i sistemi di chiusura, assolutamente, l'intervento di Giorgio secondo me è stato molto esaustivo. Però come sempre... Sì, no, però è importante come lo si conserva il vino, perché non è che basta avere il tappo di sughero e uno si tiene il vino in cucina e prende delle botte di 40 gradi e poi l'anno dopo il vino è da buttare via, perché è meglio allora avere il tappo a vite e tenerlo in cantina e avremo un risultato migliore che col tappo a sughero e temperature alte. Bene. La cosa che volevo dire io, attenzione che però il sughero non è infinito, noi dobbiamo ricordarci che col sughero, con la pianta del sughero, noi possiamo usare un metro di quella pianta lì, e non è che il sughero in tutto il mondo è infinito, e sappiamo che quando una pianta di sughero usi un metro di sughero, poi per altri 10-15 anni quella pianta lì non può più darti il sughero. Guardi, le posso dire che c'è una grossa operazione del WWF anche fatta in Sardegna su questo, quindi per mantenere, appunto, per non fare completamente sparire questa pianta. Bene, grazie. Sentiamo Giancarlo dalla provincia di Livorno. Buongiorno Giancarlo. Sì, pronto. Mi dica velocemente, sì, molto, solo un minuto. Sì, molto rapidamente, sì. Volevo dire che in sostanza in un mondo sempre più plastificato ci troviamo adesso a combattere, per esempio, le bottiglie di plastica che ce le troviamo dappertutto. E costruiamo tappi di plastica che se poi noi dovessimo prendere una bottiglia e comprimerla più o meno, guardi, non è che si andasse poi tanto lontano, ecco, dalla massa di plastica. Per cui, pensando che poi questi tappi diventeranno sempre di più perché sembra che acquistino sempre più mercato, e adesso si sta parlando addirittura di miliardi, si immagini lei, dottor Cruciani. Cioè, no, non sono Cruciani, no. Questa non è la trasmissione, non è la zanzara, non sono Cruciani. Bene, grazie a Giancarlo dalla provincia di Livorno. Bene, non facciamo politica, non facciamo discussioni troppo profonde. Qui ancora giochiamo, cioè parliamo di argomenti che riguardano il bere e mangiare, sicuramente la vita di tutti i giorni e l'alimentazione, che è estremamente importante. Il Gastronauta. Eccoci di nuovo appunto a parlare di tappi. Come avrete sentito, cari radioascoltatori, è un dibattito davvero intrigante, anche a volte aspro, questo sui tappi, molto sentito, perché poi non ho fatto in tempo a leggere tutti gli sms, che sono veramente tantissimi, ognuno che prende posizione su un tappo piuttosto che un altro. Bene, allora continuiamo comunque a sentire le voci degli addetti ai lavori. E ora ho un caro amico, un grande enologo, che è Maurizio Castelli. Buongiorno Maurizio. Ciao Davide, buongiorno. Io scommetto che tu sei tradizionalmente per il sughero. Ma dipende. Dipende anche da come qualche volta ti trovi ad avere a aprire delle bottiglie da cui ti aspetti tutto di più, e grazie al sughero poi prendi delle sonore delusioni. Quindi mi sto ricredendo molto, anche se ovviamente il fascino e diciamo quello che il sughero dà alla bottiglia di un certo valore è e rimane indiscutibile. Però oggi come oggi ci sono delle soluzioni alternative a cui bisogna prestare veramente, veramente attenzione, anche perché i nostri clienti hanno il diritto di dimenticarsi delle bottiglie in cantina, specialmente quando le pagano molto care. Senti Maurizio, nessuno ha parlato di percentuali. Ovviamente i ristoratori dicono, secondo me pro domo sua, pro domo loro, che la percentuale di tappi che il cliente rimanda indietro è molto alta. Ma secondo la tua esperienza, qual è la percentuale più o meno di tappi così che sono appunto malati? Dunque, tutto dipende anche dalla qualità del sughero che scegli, perché comunque spendere e valutare il sughero è una cosa che oggi si può fare, anche perché ci sono dei metodi di valutazione dei sugheri naturali. Sto parlando di sughero naturale, che ormai sono dei metodi ormai consolidati. Ogni cantina importante o ogni azienda ha questa possibilità di testare i sugheri prima di usarli sulle bottiglie. Detto ciò, se un'azienda seria ha questa cura nella valutazione del sughero, io ho visto che non supera il 3%. Ecco, ma questi nuovi sugheri, diciamo, a vite, di vetro, sintetici, di silicone, quindi, secondo te sui vini rossi, ecco, la sperimentazione sui vini rossi, credo che ancora pochi siano arrivati a sperimentazioni a lunga gittata di questi tappi. Allora, io ho sperimentato tutto a questo punto. Partiamo dal tappo di vetro, che è fantastico, molto chic, ma francamente sia l'applicazione, l'applicabilità, i costi soprattutto sono ancora fuori da un uso comune. I tappi di silicone, vero, il silicone, come tu sai, è un materiale carissimo, non esistono, sono i tappi di plastica. I tappi di plastica sono una iattura. I tappi di plastica ad alta densità sono veramente quanto di peggio si possa usare, a mio parere, sui vini, anche perché dopo 6 mesi, 8 mesi questi vini sono completamente ossidati, questi tappi si irrigidiscono e il vino perde le sue qualità originali. Il tappo a vite è antiestetico, non fa parte del fascino dell'apertura della bottiglia. Però non dimentichiamo che Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti stanno utilizzando sempre più tappo a vite, e quando il tappo a vite è buono ti consente oltretutto di mantenere i tenori in solforosa più bassi, quindi ha un senso anche dal punto di vista, certo, salutistico. Mantengono le qualità originali molto più a lungo di un tappo di sughero che respira, e respirare significa anche ossidare, in certi casi, in molti casi significa anche ossidare. Non generalizziamo ovviamente tutto ciò. Il tappo a corona è quanto di più sicuro e garantito ci possa essere. Per la qualità del vino il tappo a vite funziona. Ci sono poi degli altri tipo conglomerati di sughero molto buoni che adesso vengono usati regolarmente per i vini di bassa gamma o di media gamma. Bene, grazie a Maurizio Castelli. Io voglio leggere, prima di sentire Roberto Anselmi, un altro importante produttore che ha sperimentato molto. Mi è successo di aprire una bottiglia con tappo di plastica, non davanti al cliente. Lui mi ha detto che sapeva di tappo. Io, per non discutere, gli ho cambiato bottiglia. Roberto, cosa ne pensi di questo? Penso, penso che il vino era ossidato, per cui il cliente ha sbagliato il giudizio. Il vino probabilmente con quel tappo di silicone, come di silicone, di plastica, come giustamente diceva Castelli, non tiene, il tappo non tiene e il vino si ossida. Chiaramente la confusione fra ossidato e sentore di tappo può anche avvenire in chi non è così preparato. Ecco, tu hai sperimentato molto con i tappi. Sì, io ho sperimentato nei limiti di come si può sperimentare un vino bianco, perché io produco vino bianco e quindi nel vino rosso non ho alcuna esperienza. Nel vino bianco sostengo, dico, affermo, spero che tutti si convincano, abbiamo bisogno di andare nella chiusura vite, perché questa garantisce l'integrità del prodotto e garantisce l'originalità, perché l'inizio delle ossidazioni nei vini bianchi, prima di tutto vengono distrutti gli aromi, e la distruzione degli aromi chiaramente sposta anche territorialmente il vino, e poi è chiaro che è un degrado lento ma continuo, che il tappo sughero, per la sua porosità, per la sua permeabilità all'ossigeno, continua a portare nel vino bianco. Sostanzialmente quindi noi avremo una bottiglia diversa dall'altra, perché essendo un prodotto naturale, fra virgolette, perché poi i trattamenti che vengono fatti per cercare di ridurre il sentore di tappo, quindi il TCA, sui sugheri naturali proprio tanto non sono, comunque diciamo che è il tappo più naturale che c'è, sì, certo. Perché sia naturale vuol dire anche che uno è diverso dall'altro. E quindi a noi avremo andamenti qualitativi e soprattutto affinamento del vino altalenanti da bottiglia in bottiglia. Bene, grazie anche a Roberto Anselmi. Bene, ora Giuseppe Molinas, presidente del gruppo Sughero Federlegno della Confindustria. Buongiorno Molinas. Buongiorno. Lei al Vinitaly ha presentato un disciplinare del sughero e del vino, quindi vuol dire che i produttori di tappi, diciamo sardi in particolare, si stanno preparando così alla concorrenza degli altri tappi di cui abbiamo parlato. In particolare io vorrei che però lei dicesse abbastanza brevemente anche quali sono le caratteristiche ambientali che vanno salvate. Beh, sicuramente negli ultimi anni il settore sugherero ha fatto molto per andare incontro a quelle che erano le esigenze qualitative del settore vinicolo, e dunque abbiamo raggiunto sicuramente un livello molto più alto di quello che si aveva 10 o 15 anni fa, e per questo dobbiamo da una parte ringraziare i tappi in plastica. Perché? Perché proprio l'ingresso di questi tappi ci ha spinto ancora a migliorarci, è stato diciamo un concorrente in più. Oltre a questo, sicuramente quello che sta facendo a livello ambientale e a livello di riforestazione, io parlo per la Sardegna, ma ne abbiamo testimonianze anche oltre che in Spagna e in Portogallo, anche nei paesi del Maghreb, è un lavoro molto importante che richiede un lasso di tempo molto ampio, e questo per cercare di andare incontro a quelle che sono le esigenze del mercato. Infatti adesso abbiamo sempre di più nella ricerca di materiali naturali, riciclabili e biodegradabili. E questo legame che c'è, questo legame chiamiamolo naturale, tra tappo di sughero e vino, non potrà altro che aumentare nel futuro, diciamo. Bene, io la ringrazio, ho tantissimi radioascoltatori che stanno aspettando, ne scelgo uno a caso perché appunto sono tanti. Daniele dalla provincia di Pesaro, Roberto dalla provincia di... Sentiamo Ennio dalla provincia di Treviso, che è il primo che ha chiamato. Buongiorno Ennio, velocissimo. Bene, Ennio, buongiorno. Ennio non c'è, sentiamo Daniele dalla provincia di Pesaro. Buongiorno Daniele. Buongiorno, sarò breve e circonciso, sì. Come diceva quel signore. Sì, bene, bene, dica. Niente, sentivo un signore, non volevo intervenire, ma ho sentito un ascoltatore che ha detto: io sono un promotore del vino biologico. Per me la parola biologico nella ristorazione è la più grossa truffa che esista mai al mondo, perché se a 10 metri dal mio campo danno dei fertilizzanti, diserbanti, è arrivata l'onda radioattiva da Chernobyl, penso che da 10 metri arrivi maggiormente. Certo. E poi un'ultima cosa, si sta parlando di tappi, premetto che non volevo intervenire perché sono un cuoco dilettante e non mi permetto di contrastare. Veloce. Ecco, il tappo a corona è sicuro, a corona, a vita è sicuro ma antiestetico, ma bene. Quando andiamo a mangiare dobbiamo guardare l'estetica o dobbiamo... dobbiamo salvaguardare il gusto e soprattutto la salute. Questo è un bel interrogativo che dovevamo porre all'inizio, magari sarebbe stato ancora più interessante. Devo dire che quello che ha detto sul biologico lei è molto discutibile, però non abbiamo modo ora di contrapporre alle sue affermazioni altre affermazioni contro indicazioni anche. E siamo arrivati in fondo a questa trasmissione e devo dire che appunto i tappi sapevo che erano molto interessanti per il nostro pubblico, perché avevo avuto molte sollecitazioni a discutere. Abbiamo parlato poco di mezza bottiglia, magari ne parleremo prossimamente. Io vi saluto, vi do appuntamento domani per la replica di questa trasmissione alle 10 e alle 12.15 con il wine bar del Gastronauta e poi ogni giorno alle 18.30 con la pillola. Saluto, ringrazio Peter e Luigi per la collaborazione e a presto, buon weekend dal vostro Gastronauta. Il Gastronauta.